известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. If we are to deny Helmand to the Taliban in the long term, if we are to defeat this vicious insurgency and by doing so make Britain and the world a safer place, then we must persist with our operations in Afghanistan. I am confident that we are right to be in Afghanistan, that we have the strongest possible plan, and we have the resources needed to do the job. Dobbiamo insistere in Afghanistan per battere quella che definisce Gordon Brown, il primo ministro britannico, una rivolta maligna nell'intervento che ha fatto in Parlamento, confermando l'impegno del Regno Unito appunto in Afghanistan e difendendo la strategia del suo governo, peraltro attaccato dalla minoranza conservatrice, che imputa anche la scarsità dei mezzi impiegati, il numero molto elevato di militari britannici caduti nell'ultimo periodo. Soltanto sono 15 le vittime, in soli 10 giorni 15 soldati britannici sono caduti. Brown afferma che il Regno Unito dispone delle risorse necessarie per fare il suo lavoro. Oggi naturalmente è un giorno di tristezza e di lutto anche in Italia, anche se arrivano delle precisazioni che inquadrano in uno scenario diverso la morte del caporal maggiore Dilisio, il ferimento di tre suoi compagni lungo questa strada 517 nella provincia di Farah. Infatti, a spiegare lo stato delle cose è il generale Marco Bertolini, capo di Stato Maggiore di ISAF, che dice: lo dimostrano le numerose perdite subite da altri contingenti negli ultimi giorni, con lo specifico riferimento alla vicina provincia di Helmand, dove è in atto la controffensiva americana, che l'attentato di questa mattina nell'area di Farah non è stato contro le forze italiane in quanto tali, ma contro le forze della NATO in generale. E naturalmente Farah è l'ultimo episodio di una serie di attacchi contro militari italiani. Anche in questo caso, come nel caso dei soldati inglesi, si è intensificata l'attività offensiva verso le nostre truppe. Risale al 3 luglio l'esplosione causata da un kamikaze al passaggio di un convoglio di militari italiani, con due paraferiti all'interno di un blindato Lince che si ribalta. Pochi giorni prima, il 27, sempre tra Farah e Balabalù, con ordigno esplode al passaggio di una pattuglia italiana. Il Lince viene danneggiato, non ci sono feriti. Poco prima una pattuglia della Folgore è attaccata con armi automatiche. Nel frattempo esplode la controffensiva americana autorizzata da Barack Obama per liberare il sud dell'Afghanistan, e sale la temperatura, sale anche il livello dello scontro in questa nazione, come peraltro ampiamente anticipato dal nuovo presidente americano al momento dell'insediamento, che il centro operativo sarebbe stato l'Afghanistan. Lo ha detto e lo ha ribadito diverse volte Barack Obama, al punto che c'è molto da pensare attorno a ciò che sta accadendo in queste ultime ore in Iraq, con questi ripetuti attacchi alle chiese, che fanno pensare come a un richiamo, una ricerca di attenzione da parte di chi improvvisamente sente che il proprio scenario non è più il principale della crisi medio orientale, una crisi che in questo caso viene difesa in quanto tale. Abbiamo registrato meno di un'ora fa con Andrea Margelletti, che avevamo ascoltato appena ieri, il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, che si trova in Afghanistan, per l'appunto a Herat, in missione presso i militari italiani della Folgore. Ieri lo abbiamo ascoltato anche nelle sue espressioni di felice stupore nei confronti della qualità della prestazione offerta dai militari italiani. Oggi naturalmente le atmosfere sono cambiate profondamente. L'entusiasmo e comunque la positività nei confronti della missione, che è nel mezzo del guado e che quindi in quanto tale sembra un coro unanime debba essere proseguita, debba continuare, ma l'atmosfera naturalmente è di grande mestizia. Comunque poco fa Emiliano Enrico ha parlato con Margelletti, la prima domanda che gli abbiamo fatto è proprio relativa alla atmosfera, alla base italiana dopo la perdita di questo uomo, il ferimento dei suoi tre compagni. Ascoltiamo. È un'atmosfera che probabilmente pochi immaginano, non c'è rabbia e non c'è sconforto. C'è ovviamente un'enorme, grande tristezza che copre tutti gli appartenenti alle forze armate, esercito, aeronautica, marina, carabinieri, gli elementi della Guardia di Finanza che sono presenti al campo Arena qui ad Herat. Ma c'è anche un'assoluta consapevolezza che hanno delle responsabilità e hanno dei compiti da fare. Quindi l'attività è assolutamente normale e continua. Quello che è completamente cambiato è l'atmosfera che c'è al campo, ma non c'è ad esempio rabbia, non c'è voglia di rivalsa, non c'è voglia di vendetta. Ci sono soltanto dei professionisti che si rendono conto, e già se ne rendevano conto prima, che nel loro mestiere questi purtroppo sono inconvenienti drammatici. Dunque Andrea, da quello che ci hai appena descritto e appena detto, i piani, la strategia dei militari italiani in Afghanistan non cambia. In fondo dei militari sono anche abituati purtroppo a fare i conti con i lutti, a fare i conti con le morti, però se un altro qui da questa parte, cioè in Italia, forse senza quel velo di ipocrisia che c'è sempre in questi casi, bisogna dire apertamente che siamo di fronte ad una guerra terribile, drammatica, insidiosa, con quindi anche dei rischi come la morte dei nostri soldati. Vuole constatare che in Italia c'è una profonda visione diversa da quello che avviene qua. Certamente sia le forze armate sia chi si muove sul terreno con l'onestà intellettuale di dire le cose come stanno hanno sempre spiegato che in Afghanistan la situazione è a dir poco complessa. È un paese che sta vivendo lentissima e difficilissima transizione verso qualcosa di indefinito, ma che certamente non è l'oppressione della dittatura dei talebani, ma è un paese dove la NATO, di quale l'Italia è una pietra angolare, combatte contro chi vuole invece mantenere lo status quo antecedente, perché la pace crea soprattutto problemi a chi invece vuole il potere. E naturalmente immaginare che l'Afghanistan sia un paese di Gardaland dove tutti ci mandano i fiori e le rose è triste e non rende merito ai migliaia di uomini e donne che ormai da diversi anni operano in questo paese. Soprattutto non renderebbe merito accorgersene adesso e dire andiamocene via. Per gli uomini e le donne che sono presenti nel teatro afghano, sia soprattutto per la popolazione civile di questo paese che vorrebbe vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. A tuo giudizio, quello che è successo oggi è una fatalità, seppur tragica, poteva succedere a un soldato inglese, americano, quant'altri, o è comunque la conseguenza dell'accentuazione, della controffensiva che soprattutto l'America con Obama ha imposto in Afghanistan? E dunque che cosa ci dobbiamo aspettare da qui al 20 agosto, giorno delle elezioni in Afghanistan? È un attentato che viene indiscutibilmente fatto contro gli italiani, perché viene fatta nella zona dove operano i nostri, quindi, ma è il segno di una debolezza del movimento della guerriglia, che sa perfettamente che in campo aperto non avrebbe speranze di confrontarsi con successo contro i nostri uomini e le nostre donne. Dall'altra parte occorre anche dire che le elezioni afghane non saranno la fine della crisi, ma saranno un ulteriore passaggio, speriamo positivo, verso un paese che ha necessità di avviarsi verso una regolarità. È ovvio immaginare che da qui alle elezioni e anche nel periodo successivo, immediatamente successivo alle elezioni, chi vuole opporsi a tutto questo cercherà di fare il proprio massimo per colpire e alzare il prezzo del sangue della comunità internazionale in Afghanistan. Quindi non escludi l'escalation, e per concludere ti chiedo Andrea, credi che l'episodio di oggi possa aprire anche una questione legata alle famose regole d'ingaggio degli italiani? nostro è un paese serio e maturo, abbiamo indiscutibilmente un governo serio e maturo, non ho dubbi che non vi siano ripensamenti sulla presenza italiana in questo scenario. Quello che è importante è però rendersi conto che dare maggiore supporto, più uomini, e soprattutto il nostro governo, il nostro paese dovrebbe essere volano per far sì che diverse nazioni che operano in Afghanistan, diciamo con poca flessibilità, dovrebbero invece essere più attive di supporto alle forze di sicurezza locali. Grazie Andrea, subiranno dei cambiamenti i tuoi piani, i tuoi programmi in Afghanistan dopo quello che è successo oggi, o si va avanti insomma con la tabella di marcia prevista? Si va avanti indiscutibilmente con la tabella prevista, almeno questo è quello che io mi auguro, è tradizione del mio istituto vivere nella stessa maniera con la quale predichiamo o analizziamo gli avvenimenti, quindi noi ci auguriamo che il lavoro che stiamo facendo in questo contesto potrà, come lo stiamo facendo naturalmente, compatibilmente con gli impegni delle forze armate italiane che ci stanno ospitando. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want. Prima di cambiare completamente argomento con un'altra notizia di attualità, voglio darvi qualche dato in più. Tra l'altro gli stessi sono appena stati diffusi anche dalle televisioni americane, che seguono naturalmente con crescente interesse e anche crescente mobilitazione lo scenario afghano. Sarebbero 1227 i morti delle forze NATO in territorio afghano, quindi il formato di una guerra vera e propria anche qui ha tutte le ragioni di esistere. 647 di questi sono americani, 184 sono britannici, 124 canadesi, 30 tedeschi, 26 francesi e poi gli altri, tra cui i caduti italiani. L'escalation è legata a questa offensiva statunitense nella valle di Helmand, di cui abbiamo più volte parlato, abbiamo provato anche ad analizzarla nel significato, come una massiccia operazione aviotrasportata voluta dal comando americano per sbaragliare i ribelli talebani insediati in quella area, e la produzione di oppio afghano, che è proprio il 60% del quale viene coltivato proprio in questa zona. Dopo l'inizio della operazione, che porta il nome in codice di colpo di spada, Kanjar, che ha coinvolto 4.000 marine, 650 soldati e agenti di polizia afghani, L'operazione si è poi in un certo senso fusa con un'altra operazione invece sempre aviotrasportata ma di matrice britannica che si chiama Panchai Palang, zampata di pantera vuol dire, e da quel momento in poi le due operazioni hanno all'altezza del 3 di luglio, da quel momento in poi negli ultimi 10 giorni le due operazioni hanno corso praticamente su binari paralleli, le perdite sono notevoli, c'è una forte resistenza incontrata dagli americani, in particolare nello strategico crocevia del distretto di Garmser. I talebani hanno annunciato a più riprese di essere pronti a rispondere all'attacco con operazioni di guerriglia, che sono esattamente quelle che stanno andando in scena in questi giorni, che sono costate la vita a 8 soldati britannici l'11 luglio, quindi 3 giorni fa, che hanno ucciso diversi marini, gli ultimi dei quali 2 poche ore prima dell'esplosione della bomba artigianale che a 50 km a sud di Farah ha causato la morte del nostro para Alessandro di Lisio. Allora, la notizia a cui vogliamo dedicare ora attenzione invece di tutt'altra natura, riguarda gli Stati Uniti, riguarda l'elezione del nuovo giudice della Corte Suprema che è nella sua fase critica, il passaggio alla audizione presso la Commissione Giustizia del Senato per valutare la congruità di Sonia Sotomayor come nuovo giudice appunto della Corte Suprema. Ieri c'è stata una giornata introduttiva con una dichiarazione di metodo da parte della stessa Sotomayor. Oggi il giudice di New York, nativa del Bronx, origini portoricane, verrà sottoposto al vero e proprio fuoco di fila delle domande dirette da parte dei senatori. Se accendete una televisione news americana potete già assistere all'inizio della procedura. Chi porrà le domande a Sotomayor, i senatori che porranno queste domande avranno titolo e facoltà di indagare su qualsiasi aspetto della sua vita professionale e privata. Un giudice della Corte Suprema è un giudice che prende decisioni che toccano direttamente la vita di tutti i cittadini americani, ne modificano le abitudini, diritti e doveri, e di conseguenza è naturale che il numero ristretto di persone che assortiscono questa corte, sono soltanto 9, venga vagliato prima di essere approvato e inviato a far parte della corte a vita, una carica a vita, o almeno finché non si decide di fare un passo indietro, vengano comunque vagliati nel modo più approfondito. Le parole con cui Sonia Sotomayor ha esposto ai senatori americani come intende interpretare questo ruolo di giudice, se verrà confermata alla Corte Suprema, sono le seguenti. La mia filosofia giuridica si riassume in poche parole: fedeltà alla legge. Il compito di un giudice non è quello di fare la legge, ma quello di applicarla. Riferimento non casuale dopo le accuse che le sono state rivolte ultimamente di essere un giudice attivista, che in gergo giuridico americano significa un giudice che sulla base di alcune sue convinzioni di carattere politico, anche di carattere sociale o anche di carattere razziale, tende a piegare l'utilizzo delle norme giuridiche, delle leggi in favore di queste sue convinzioni. Ha detto ancora Sotomayor: negli ultimi 17 anni ho cercato di rafforzare sia il ruolo dello Stato di diritto che la fiducia nel nostro sistema giudiziario. Poi è seguita ieri una lunga udienza, tanti membri della Commissione si sono espressi, ha parlato anche Al Franken, l'ultimo arrivato, il neosenatore del Minnesota, quello che ha dato ai democratici la maggioranza assoluta di 60 su 100 al Senato, appunto ai democratici. Negli ultimi 30 anni ho osservato, ha detto ancora Sotomayor, il nostro sistema giudiziario da diverse prospettive, come procuratore cittadino, come avvocato nel settore finanziario, come giudice di primo grado e di appello. In ogni caso che ho esaminato, ho applicato la legge con i fatti alla mano. La mia esperienza personale mi ha aiutato ad ascoltare e a capire, ma sempre tenendo presente le leggi e la legge in ogni decisione presa. Vedremo come procede questa audizione, ma insomma i pronostici sono tutti in favore del passaggio alla Corte Suprema di Sonia Sotomayor. Ultimissima aggiornamento invece per le notizie principali che abbiamo seguito in questi giorni, arriva dall'Honduras dopo una lunga situazione di stallo, diverse giornate durante le quali sono andate mancate tutte le possibili occasioni di incontro, ogni possibile situazione conciliatoria. È arrivato un ultimatum da Managua, Nicaragua. Il presidente legittimo destituito dell'Honduras, Manuel Zelaya, che gode dei favori e del sostegno della comunità internazionale, ha lanciato un ultimatum al rappresentante dei golpisti, Roberto Micheletti. Deve lasciare il potere entro questa settimana. Se non lasceranno il potere i golpisti, saranno prese, ha detto Zelaya, altre misure. Non ha specificato di che misure stia parlando. Naturalmente sono parole semplici ma al tempo stesso sinistre. Anche in questo caso la sensazione è quella di un progressivo crescere del livello dello scontro e le prime ombre di guerra civile, ormai lo scrivono anche i giornali americani, cominciano ad addensarsi sul piccolo stato dell'Honduras. dunque il Medio Oriente non passa giorno che rinnova la composizione dei suoi scenari, soprattutto le cronache che da esse provengono, spostandosi di volta in volta da una nazione all'altra con proposte di crisi, se possiamo dire così, che trovano addirittura il modo di rinnovarsi, di dare a nuovi spunti di discussione. Abbiamo coinvolto oggi in questo aggiornamento Alessandro Politi, il direttore dell'Osservatorio Strategico di Novisma, nonché un amico di Jefferson, che salutiamo con piacere. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a voi. Allora, prima di tutto vorrei un parere naturalmente sui fatti che hanno causato oggi la morte di un altro militare italiano, inserendolo all'interno di uno scenario afghano che naturalmente è in piena escalation. Oggi abbiamo conosciuto il dolore per una nuova vittima italiana, ma sappiamo bene qual è il dibattito in questo momento in corso nel Regno Unito, quali sono le intenzioni di Obama, qual è stato il presupposto programmatico che ha spinto alla controffensiva ormai in atto da un paio di settimane nel sud del paese. È quindi inevitabile che a un certo punto capitino cose di questo genere. Cosa ne pensi? Da un lato ci sono dei fattori strategici. Obama ha deciso di fare un picco di presenza in Afghanistan perché vuole cominciare a neutralizzare tutte quelle forze che poi potrebbero sostenere Al-Qaeda in un nuovo rischio per gli interessi e la sicurezza americana. Per questo è in corso un'offensiva nella provincia dello Helmand, e gli effetti di questa offensiva non sono chiaramente localizzati. Certo, certo. Per cui le onde di questa offensiva si spargono nel resto d'Afghanistan e la provincia di Farah è la seconda linea logistica della NATO, oltre a quella da Peshawar, già seriamente a rischio, che i talebani vorrebbero strangolare. Poi ci sono dei fattori locali, quindi parliamo di banditismo, signori della droga, gruppi ribelli non necessariamente politici, che sono infastiditi dalla presenza sul terreno dei nostri militari. Guai se non ci fosse, perché perderemmo il controllo e quindi verremmo assediati, certo, nei nostri fortini, ma questo significa che gli avversari cercano di farci fuori, quantomeno di scoraggiare la nostra attività. Quindi è il prezzo dell'esserci, in un certo senso. Quindi è il prezzo dell'esserci senza fare la fine dei topi in trappola. Certo. Questo però è molto rischioso, perché quando si dice bisogna pattugliare, bisogna essere presenti, bisogna neutralizzare senza bombardare indiscriminatamente, certo, e beh, chi rischia è la truppa. E purtroppo, anche se molto professionista, addestrata ed elite, il rischio vale lo stesso. Ecco, ma riguardando a posteriori il primo intervento deciso militare in Afghanistan, qui si ha come la sensazione, se mi passi l'espressione, di una specie di recrudescenza dell'infezione, che evidentemente nella prima occasione non è stata rimossa nel modo corretto e soprattutto completo. Adesso si cerca di tornare ad agire dove in realtà si era già lavorato e poi si era interrotto, no, a un certo punto l'intervento, è qualcosa del genere? Beh sì, nel 2002 c'è stata una grandissima chance. Certo. I talebani erano stati battuti su tutta la linea, erano aggrappati a una striscia di confine con il Pakistan. Il problema non era dare loro il colpo di grazia, il problema era amministrare diversamente l'Afghanistan in modo giusto, corretto, liberale se non democratico, ma insomma con la certezza del diritto e la tranquillità. Questo non è successo. Certo. Per cui abbiamo proprio nelle province dello Helmand dichiarazioni di comuni cittadini che dicono: beh, i talebani sono duri, però i loro giudici sono giusti, rapidi e non si fanno pagare la mazzetta. Certo. Queste sono campane a morto per il governo, quindi l'azione militare è una parte di questo sanguinoso processo di votazione con i piedi, quindi votazione con altri mezzi, che è la guerriglia e la controguerriglia. Se non si convincono i cittadini che c'è un'alternativa concreta, alla fine e si può misurare l'insicurezza in Afghanistan, che prima era minima, adesso quasi tre quarti del territorio afghano non sono più sotto efficace controllo governativo. Questo è gravissimo. Quindi anche una previsione di un picco di questa escalation di violenza e di confronto in vista del 20 agosto, data delle elezioni, è un po' illusorio, mi sembra di capire, tu sostieni. Non è quello il vero snodo o si può pensare che sia il momento di un cambiamento di atmosfere? L'elezione è solo un passo che dovrebbe far capire se il prossimo governo di Kabul sarà efficace, competente e fondamentalmente onesto oppure no. Questo però è un passo. Dopodiché i risultati uno può sognarseli in tanti modi, ma fondamentalmente la scelta è fra due possibilità. Uno stallo negativo e quindi Kabul fa la fine di Najibullah, cioè si regge militarmente finché si può, ma poi si viene sommersi dall'onda degli avversari che conquistano consensi. È uno stallo positivo dove dal punto di vista militare si ottengono alcuni successi, ma la popolazione afghana capisce che il governo è affidabile e quindi si può fare un accordo di pace con larga parte delle famiglie importanti Pashtun. Perché questo poi è un altro problema tra nord e sud dell'Afghanistan. Tutto questo senza fare i conti col convitato di pietra che è il Pakistan, che è sempre stata la vera tomba, certo, degli eserciti che hanno provato a controllare questo posto fondamentalmente poco strategico dell'Afghanistan. Io vorrei chiederti invece un commento riguardo all'altra notizia che, di provenienza medio orientale, che sta riempendo le agenzie, le pagine dei giornali nelle ultime ore, ovvero questi attacchi alle chiese cristiane. Adesso siamo arrivati a un numero di 9, sono tante le chiese cristiane colpite tra Baghdad e Mosul tra ieri e l'altro ieri, bombe di solito poste all'esterno degli edifici che sono cattolici caldei e ortodossi. Ci sono 4 vittime, un numero elevato di feriti nella comunità cristiana irachena, originariamente vicina al milione, poi al mezzo milione, adesso pare ancora in rapida riduzione. Naturalmente la paura è grande, arrivano gli appelli da parte del Papa, anche da parte dei notabili della Chiesa locale, ma l'interrogativo è attorno alle motivazioni. È una ricerca di visibilità, passare per la Chiesa tutto sommato da sempre un lasciapassare internazionale, no? In qualche modo. Innanzitutto c'è da notare che gli attentati più pesanti sono in genere nella zona di Mosul ed è lì che sono anche state attuate delle misure di coprifuoco. Perché? Perché lo scontro fra gli arabi insediati ai tempi di Saddam Hussein e i curdi hanno come posta in gioco il petrolio. E a questo punto si toglie di mezzo una minoranza che per il solo fatto di esistere complica la vita, dà fastidio e quindi meglio convincerla con le spicce brutalmente ad andar via. Certo. Poi ci sono gli attentati di Baghdad, alcuni di questi sono stati fatti con bombe molto artigianali, uno no, era una bomba piuttosto potente. Qui c'è una vecchia campagna terroristica, quando si parla di terroristi purtroppo si usa una frase molto generica, per eliminare le presenze che non siano musulmane in Iraq. E poi vabbè, c'è la questione degli sciiti, che naturalmente è molto forte, che nel pieno della guerra civile irachena è stata, insomma, è arrivata al parossismo. Certo. Qui c'è stato, diciamo, di nuovo un picco. I responsabili locali della Chiesa Caldea dicono che sono forze esterne, che è un modo elegante per dire che sono diciamo gli internazionalisti jihadisti ancora presenti in territorio iracheno, e in questo caso sì, è una ricerca di visibilità, è un bersaglio più facile, è un modo per dire che si è ancora presenti e per cercare delle coperture anche oltre frontiera in nome di più vasti e sfumati interessi estremisti jihadisti. C'è qualcosa che la Chiesa, per concludere rapidamente Alessandro, c'è qualcosa che la Chiesa può fare per contenere, influenzare l'andamento degli eventi da quelle parti, oltre a questi appelli che sono stati espressi nelle ultime ore? Non molto di più, onestamente. I responsabili locali hanno sottolineato che si stanno attaccando tutti gli iracheni, quindi hanno evitato la vittimizzazione selettiva. Le misure di sicurezza chiaramente sono importanti. Quello che è fondamentale è di separare sempre più la dinamica tra le forze politiche irachene, le milizie irachene e invece quello che ancora resta del terrorismo jihadista internazionale. È quello che sta perdendo molto terreno e però pulsioni fondamentaliste non ci sono soltanto, diciamo, tra quelli della compagnia di giro terroristica genericamente di Al-Qaeda, ci sono anche in delle forze politiche irachene che dispongono di milizie, di polizie parallele, di gente pronta a fare dei giochi sporchi perché ancora la situazione non è stabilizzata. Fortunatamente non siamo più sull'orlo del baratro della scissione violenta, ma ancora c'è molto da definire per arrivare a un paese finalmente funzionante e pacifico. Bene, grazie. Questi sono i pareri, i punti di vista espressi sugli ultimi fatti, sugli ultimi eventi medio orientali, espressi da Alessandro Politi, direttore dell'Osservatorio Strategico di Novisma. A drinker and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep. All the dead, 27 people, even more, they were boys with their cars, summer jobs. Oh my God. Gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Bene, dopo gli expertise firmati da Andrea Margelletti e da Alessandro Politi, siamo veramente in chiusura di programma. Giusto il tempo di qualche notizia, io ve ne do al volo soltanto uno. A Barack Obama gli si è rotto il gobbo e del resto chi di gobbo sancisce, di gobbo perisce, gli è esploso letteralmente davanti. Per fortuna le schegge sono cadute lontano, lui ha detto soltanto «Oh cielo!». Quindi ha risposto con il classico fair play che certo, nella sua arte oratoria lo contraddistingue. Io resto su una zona molto incerta, molto instabile, naturalmente non di guerra, ma comunque molto preoccupante, che è quella dello Xinjiang, di cui stiamo parlando molto in questi giorni. Quindi in qualche modo continuiamo questa puntata un po' con l'elmetto che ci ha contraddistinto. Certo. Segnalo un interessante articolo di Bill Hammett, l'ex direttore dell'Economist, sul Corriere della Sera, pagina 8 di oggi. Cina, perché la rivolta degli Uiguri rilancia il Partito Comunista. La tesi di Hammett è interessante perché da un lato fa un parallelismo con le rivolte in Tibet dell'anno scorso, pre-Olimpiadi di Pechino, e dice che come allora le autorità cinesi sono riuscite a persuadere, a convincere la maggior parte dei cinesi che la ribellione rappresenta una grave instabilità per l'unità nazionale, quindi a compattare la popolazione perlomeno Han nei confronti del governo stesso. E dice: assai diverso sarebbe stato se il sollevamento popolare fosse avvenuto a Shanghai o Pechino, quindi ci sarebbe stato uno scontro fratricida tra Han, però questo naturalmente non scagiona il governo di Pechino da eventuali responsabilità e soprattutto non preclude un futuro incerto, instabile e, scrive Emmott, vittima anche di violenze e di episodi di terrorismo. Quindi sicuramente un articolo da leggere sul Corriere della Sera. Poi segnalo invece una risposta sullo Xinjiang che arriva da Al-Qaeda per il Maghreb Islamico, che è la fazione, la versione nordafricana di Al-Qaeda, che preannuncia una vendetta per i musulmani uiguri, e quindi c'è preoccupazione soprattutto per i tanti cinesi che vivono in Medio Oriente, in particolare in Algeria, dove addirittura 50.000 cinesi lavorano e quindi sono, secondo l'intelligence cinese, forse anche possibili bersagli. Questo è il giro, è il mondo che gira intorno a Jefferson 2. Noi cerchiamo di raccontarvelo, spesso veramente le notizie si sovrappongono e poi prendono anche a intrecciarsi, e forse il pianeta è troppo piccolo, sicuramente i guai non lo sono, almeno per quello che vi abbiamo raccontato e abbiamo cercato di approfondire oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Milano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Valeria Bernardi, la mail è jefferson2@radio24.it. Su Facebook abbiamo due pagine, redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. La replica a mezzanotte, la diretta come sempre dopo le 4 qui su Radio 24. Ci risentiamo e state bene.